concepita allo scopo di creare un'opera collettiva, quindi la rivista è sempre stata una cosa importante. Però negli anni 60 e 70 il problema era quello che le riviste o si facevano in copia unica o si doveva andare a fare almeno 1.000 copie. In tipografia, capito? Quindi era abbastanza costoso, era e se no venivano fuori delle cose ciclostilate, erano cose minimali. Il punk invece le fa rinascere tantissimo, soprattutto perché arrivano le fotocopiatrici. Era facile, farne 10, poi ne studiano tutti 10, ne fai altri 10 e così via, non dovevi mettere soldi davanti. E questo ha fatto veramente esplodere il mondo delle fanzine. Credo dal 77 all'84-85 sono uscite, ma anche il più piccolo paese di provincia del sud aveva magari qualcuno, due che si erano messi insieme e avevano fatto la fanzine. Certo, il punk era questa cosa qua, il do it yourself, no? Il punk si divide in due, no? C'è la prima parte del no future, dove uno odia la sua famiglia, odia la scuola, odia di andare a lavoro, odia di andare, tutto quanto, allora fa la rottura del ghiaccio, il breaking glass, è un momento molto difficile per una persona che rompe con tutta, e deve in qualche maniera tirare fuori anche la propria rabbia attraverso una opera artistica più basilare che c'era, no? La musica, sappiamo che la musica è la forma d'arte che colpisce le corde emotive più profonde, no? Infatti la musica. E quindi il punk va a fare la musica. Tutti quanti vanno a fare la musica. È solo però c'erano delle persone come me che non riuscivano proprio ad andare all'orecchio e per fortuna c'erano le fotocopiatrici che ci danno questa possibilità di fare delle riviste. Infatti, il punk, infatti, quando mi dicono che era solo musica, io dico, no, il punk non è solo musica. Il punk era musica e fanzine. Questa cosa qui bisogna metterla bene, perché poi ci sono delle questioni che sono molto legate, perché già la fanzine stessa era una zine, una rivista dei fan dei gruppi musicali. Fanzine era però un termine che negli anni 70 non veniva usato perché erano per quelle per il calcio, soprattutto per la musica, perché negli anni 70 invece la rivista serviva proprio come attività politica, di lavoro culturale di base. Il punk invece prende il fanzine, anzi non lo tramuta ancora il punk zine, perché parlava sì di musica ma parlava anche di tutt'altro, anche trattati filosofici, anche assurdi, perché il do it yourself ci portava a provare a sperimentare in tutte le direzioni possibili. Un po' la rivista è questo anche, perché tu quando sei giovane non sai dove mettere la tua voglia di comunicare e nella rivista tu puoi capire, magari sai disegnare bene, ma magari capisci che non te ne frega niente e ti capisci proprio attraverso fare la rivista editoriale che puoi passare invece dall'altra parte, dalla musica. Ecco, la rivista poi, con il corso degli anni, diventa sempre più importante che il gruppo redazionale si rafforzi. Ecco. Il gruppo redazionale è la cosa più importante perché più riesci a stare insieme con la redazione, più la rivista, cioè il fatto che voi vedete che magari il primo numero è sempre scemo, il secondo numero ha un attimo di rassestamento e non sono mai belli, secondo i numeri, o il terzo numero o non c'è, o viene fuori finalmente una rivista, questo è il stato di processo di crescita della redazione che ha fatto la rivista. Io poi Volevo raccontarvi anche cosa è successo durante questo progetto che ne parlavamo prima, l'edicola che non c'è, ma anche perché, come dicevo prima, non sapevamo noi amanti della carta come sarebbe andata a finire nel rapporto con il telefono e le nuove tecnologie. Non sapevamo proprio, attraverso il periodo 2008-2010-2011, era un periodo che ci chiedevamo proprio cosa poteva succedere alla nostra amata carta. E proprio in quel periodo ci siamo resi conto che appunto il libro poteva funzionare come un incontro gratuito, uno scambio, tutto un libro è piaciuto, chi la può comprare, però è un evento gratuito. E più delle volte sono anche dei momenti, io tento sempre di farlo, noi tentiamo sempre di farli, dove con le domande diventa un rapporto molto più orizzontale tra chi parla e chi invece ci ascolta. Quindi il rapporto con la rivista era ancora più forte perché la rivista è fatta da tante persone, tanti amici anche che potevano intervenire anche ricreando un rapporto veramente orizzontale come quello di un'assemblea. E questo è un dato che piano piano si è sviluppato. Ecco, quindi per fare questo lavoro, l'edicola che non c'è, noi abbiamo deciso di fare una specie di rivista, un rivistone, una rivista enorme, e abbiamo messo insieme tutti i vari redattori e redattrici che trovavamo della rivista, della rivista Santo, adesso perché l'ho trovata, insieme agli studenti di storia contemporanea della statale che avevano fatto o stavano facendo delle tesi di laurea su o Renudo o Decoder o le fanzine punk appunto o l'arrivo delle nuove forme di perché poi c'è una specie di rinascita soprattutto dei festival legati all'arte grafica, all'anagramma, alle riviste, un nostro grande piacere perché noi abbiamo sempre pensato che le riviste sono poi le riviste che diventano storiche perché accompagnano i movimenti. Le riviste hanno da sempre accompagnato i movimenti. Movimenti culturali, movimenti politici, movimenti anche di tipo esistenziale. Le riviste le hanno accompagnate proprio perché nella redazione si trovavano diverse intelligenze che si univano e in qualche maniera diventavano noi, prima il noi della redazione, che per osmosi viene poi replicato. E quindi per questo sono le riviste, sono sempre state storicamente. Ma in poi quasi e ancora adesso questa cosa qui sarebbe bella che ci fosse, ma purtroppo non c'è. Sto saltando un po' da una parte all'altra, anche perché avevo pensato di raccontare a voi questa storia perché è il momento in cui noi della redazione di Agenzia X, con l'aiuto di Nicola Del Corno, che è il professore di storia statale, noi stavamo capendo se valeva ancora la pena di andare su carta. È quel momento lì in cui noi ci rendiamo conto che la carta crea relazioni, la carta ancora è utile per chi vuole disegnare, per chi vuole scrivere qualcosa. È molto utile ancora adesso. Chi prende appunti e chi fa gli schizzi. Non capivamo però come mai non ci fosse, non c'è ancora adesso, una rivista come poteva essere appunto Renudo, come poteva essere Decoder, come poteva essere Thorazine, sono tutte riviste che hanno accompagnato i movimenti. Al giorno d'oggi non ci sono queste riviste perché in qualche maniera anche il nostro mondo dell'underground è frammentato. È tutto frammentato. Ci sono tantissimi, quasi come nel tempo del punk, produzioni di riviste, però sono riviste sostanzialmente del singolo, che fa una persona, non c'è più la relazione. E questo qui è un po' triste, ma è come siamo noi al momento, che non riusciamo a unirci, non riusciamo a stare insieme. Cioè, io vi voglio dire, alla fine di questo, che voglio dire, che la carta ancora è un straordinario mezzo tecnologico. La redazione che faceva con le riviste straordinarie che vediamo qua, che Duccio le ha raccolte, sono invece sparite sostanzialmente. Mi è capitata, ci sono diversi festival, voi conoscerete, ma ce ne sarà uno settimana prossima a Milano che è enorme, anche un po' troppo fichetto per il mio gusto, che si chiama Sprint, che è una roba enorme, sempre più grossa, diventa sempre più grossa. Ma al centro sociale di Rho 3 settimane fa c'era AFA, io ero convinto di vedere una ventina, una trentina di bancarelle, ce ne erano almeno 100. E questo fa capire come la carta è ancora il rapporto che noi abbiamo con la carta è ancora molto sentito. Ciò che non è sentito è quell'altra cosa, la relazione che non c'è. Quando noi abbiamo fatto di cose che non c'è, era stato bello perché abbiamo preso tutti o i vecchi, eravamo 2019, quindi 6 anni fa. Fino a praticamente al cyberpunk, alla cultura dei fine anni 90, del Novecento proprio, c'erano tutti quelli che avevano fatto la relazione, venivano, capito, ottantenne con la sua amica ottantenne, anche lei, fino a settantenni, sessantenni, cinquantenni, tutto quanto. E poi in effetti, noi, tutto quello che era riguardante invece gli ultimi anni, che poi erano gli anni 10, sono venuti in tanti, ma non hanno neanche parlato. Non hanno neanche parlato. Però se tu segui tutto la produzione artistica underground dagli anni 80 in avanti, tu puoi vedere benissimo quali sono stati i diversi percorsi delle persone che ci avevano scritto, che ci avevano disegnato, che avevano fatto le loro grafiche. È una cosa straordinaria che invece purtroppo con le riviste attuali non puoi vedere soltanto quell'artista, quell'autore di fanzine, autrice di fanzine, ha fatto piano piano. E questo è sicuramente un dato che dovrebbe farci ragionare. Noi adesso stiamo facendo. Io parlo un po' a ruota libera, Sì, questo questo perché. ad esempio su Radical Archive sono le fanzine, più o meno sono tutte fanzine milanesi in ordine cronologico, e rivista underground a Pianeta Fresco, a Situazione 1 che era una rivista situazionista come S, BT e poi Renudo, e si va lì e si prosegue poi negli anni 80 con le vere e proprie fanzine come Xerox. Ah, questa è quella che ti dicevo, Suicidio Suicidio Milano, ma l'ho Milano. trovata a te, quello non me la ricordo. Vabbè, comunque. Sì, poi tra l'altro. Era l'allestimento, avevamo messo non gli originali, le fotocopie. Avevamo messo le fotocopie di tutti, così avevamo fatto l'allestimento, era stato fatto sotto la metropolitana di Milano, proprio nel centro di Milano, sotto il Duomo. Tra la fermata del metro Duomo e quella di Corduso c'è un tunnel, no? E questo tunnel qui è disabitato da sempre, perché nessuno lo frequenta. Siamo nel centro di Milano, ma è un tunnel orribile, bruttissimo, sembra un cesso. Era la vecchia sede di Mondomeni. Esatto. E lì da sempre in quel luogo le persone dell'underground si trovavano. E negli anni 60 appunto negli anni 60, ci sono i cappelloni che sono visti malissimo, che non possono andare da nessuna parte, tranne da sotto, si rifugiano da sotto. E poi quel tunnel lì, c'è anche un angoletto dove c'era allora un bar che li ospitava, e da lì è nata proprio la redazione della prima rivista dell'Underground, almeno degli anni 60 in avanti, che è appunto Venuto, Mondo Kit. E allora lì noi abbiamo voluto fare e abbiamo ricreato una specie di edicola in questo tunnel e abbiamo messo tutti i ripiani divisi per decenni, così tutta la gente poteva venire lì e prenderla in mano la rivista, perché noi anche facendo questo lavoro qui, noi siamo per una propria, infatti qui io sono contento che Lucio abbia messo tutto su Archive e quindi è in linea un po' con il nostro tentativo di ribaltare la proprietà privata a partire da una con l'intellettuale. Siamo sempre stati così, siamo convinti che sia l'unica maniera per uscire fuori dalle dinamiche che ti vogliono per forza in un mondo dove ci sia competizione. Perché? La rivista era una cosa che vendevi, non sapevi di già dall'inizio, si sa, la fai per tirare fuori te stesso, per un passo avanti rispetto a quelli, non importava se i soldi venivano tanti, non era proprio quello il problema. E quindi anche la questione della copyright, soprattutto della proprietà intellettuale, noi tentiamo di allargarlo, quindi tutti i nostri libri possono essere citati, prese, rivisti. Adesso parlavamo, perché proprio ieri ho fatto una bellissima e interessante riunione sulle nuove frontiere del Creative Commons, che sono straordinarie, perché praticamente si dice non più libero per tutti, libero per chi è libero, non libero per tutti, ma libero per chi è libero. E quindi è un passaggio in più che a me ha fatto parecchio riflettere, perché altrimenti tu libero, sai, ci sono marea di opere artistiche, letterarie, prodotte dalle riviste che sono diventati dei libri di grandi case editrici che però non hanno mai pagato il copyright a nessuno. E invece questa nuova frontiera del Creative Commons ti permette, volendo, di contrapporti a una grande industria culturale che fa solo profitti, e tu hai preso questo che non potevi essere preso. Ne approfitto per dire, è molto interessante, è un po' lunga la storia. Ovviamente come istituzione mettiamo o testi in pubblico dominio oppure, per liberare appunto dei libri, tramite una banalissima liberatoria da parte degli eredi. Ad esempio le eredi di Pier Mario Ciani ci hanno autorizzati a pubblicare qualsiasi cosa di Pier Mario Ciani, idem dell'artista Ugo Carrega, idem di tanti altri. Ecco, qui è un po' il cuore dell'underground. E sulle UA Creative Commons ne approfitto per annunciare, oggi abbiamo creato una collana che si chiama Mark Digital, pubblicata su licenza Creative Commons. Oggi abbiamo pubblicato questa seconda uscita, gli scritti di Betty Danon, che è un'artista italo-turca di Milano, tra l'altro, e ecco, l'abbiamo caricata appunto con licenza Creative Commons, e quindi è liberamente scaricabile, stampabile. Comunque se lo farò avere la nuova perché comunque in realtà tutta la logica che passa dalle fanzine, quella della condivisione, no? Condividere il sapere senza fondare poteri, no? Diceva il maestro Primo Moroni. Quindi questa condivisione è fondamentale anche per cercare di stare da questa parte della barricata alla fine, perché il problema grosso è soprattutto in questo periodo che non, una volta c'era per esempio noi punk, da una parte eravamo noi, dall'altra erano i nemici, c'era proprio una divisione netta, cos'era l'underground e cos'era il mainstream, proprio netta. E poi invece sono arrivati gli anni 90 e piano piano, soprattutto il capitale, i ricchi borghesi, hanno capito che quelle cose lì funzionavano, perché come sappiamo tutti, non è che gli artisti più incredibili escono fuori dall'università, non tutti gli artisti escono fuori dall'università, ci sono anche dei fiori della spazzatura, come dicevano i Sex Pistols, che chissà perché, forse perché sono sostenuti talmente tanto dalla propria comunità di riferimento, amici, perché era il poeta del gruppo, era lo stipatino del gruppo, sono diventati altrettanto famosi come quelli che escono dall'Accademia. E questo qui è un dato di fatto che il capitale se ne è reso conto piano piano, con tutta questa confusione che si è creata durante gli anni 90, e dove si pensava era caduto il muro di Berlino, non c'erano più guerre, tutto è cambiato, tutto quanto che... Fabiano ride perché poi dal punto di vista politico c'era tutta la questione delle tute bianche che si legava cioè, per intenderci, tutta la cultura dell'underground è fuori dal Parlamento, è extra parlamentare, perché appunto nasce da quattro ragazzini, quelle due ragazzine che si mettono insieme e cercano di fare una roba insieme. Non si vede neanche di soldi, soltanto un po' di tempo e voglia di confronto. E quindi che cosa dovevamo fare? Gli anni 90 sono stati un po' questa questione qua, che l'underground e il mainstream si sono un po' fusi. Certo, le avviure dal mondo dell'underground al mainstream ci sono sempre state. Primo ovviamente il surrealismo con Salvatore Dalì, no? Che all'inizio dollari, che gli dicevano che erano i dollari, sono sempre stati, ma questa diciamo unione ibrida, anche un po' puzzolente, tra underground e mainstream negli anni 90 c'è stata. E questo cosa ha portato? Ha portato a una frammentazione anche dell'ambiente dell'underground. La rivista Thorazine, che forse è una delle ultime riviste più grandi che ha fatto appunto marciare un movimento con sé, è fine anni 90, 96, 97, 98. È stata ripubblicata, sì, adesso è un volume leggibile. Infatti poi il libro lì mi ha fatto parecchie presentazioni, mi ha fatto quello di Milano, ed è stato molto particolare. Anche l'altro ieri, quando abbiamo presentato in Torchiera il libro di Valerio Mazzioli, anni 90, c'è stata questa cosa qui, che negli anni 90 le riviste sono state ancora importanti, ma erano portate da coloro, erano fatte da coloro che avevano 30 anni allora. E poi negli anni 00 c'è questa rottura, che però non è una rottura rispetto alla carta, come abbiamo visto da Sprint e tutti i festival che ci sono, è una rottura dovuta alla questione che siamo frammentati, che non riusciamo più a trovare in noi che è necessario per fare una rivista. Un po' anche perché è una questione anche gravissima, che il welfare è quello che è, noi figli dei lavoratori che sono sempre più senza soldi e fanno magari 5.000 lavori, 2.000 cose da fare e non trovano il tempo nemmeno di dire troviamoci per fare la rivista. Quando finiscono di lavorare solitamente siamo, però io sono più giovane, e sono talmente stanchi che vanno a finire una birreria e non c'è nemmeno la capacità di ragionare. Ho mangiato magari qualche cazzata insieme a dei colleghi che non te ne frega niente, oppure addirittura c'era che era rimasto a casa perché sta aspettando la telefonata del numero di telefono, la telefonata del lavoro, e sono tutte questioni che purtroppo tolgono del tempo prezioso. E poi ci sono i cellulari, veramente. tempo prezioso per elaborare un percorso collettivo. Però se voi trovate del tempo per sfogliare le riviste del passato, fino a non capite qual è stata l'importanza, soprattutto per coloro che appunto amano ancora adesso la carta, che preferiscono leggere un libro su carta e non sul computer, bisogna capire cosa è successo. Infatti se si legge il libro di Valerio Mattioli è chiaro, ma le riviste tutti gli anni 90 tra De Coster, Giulio Prodi e Torazin sono le tre riviste che sono un po' portanti di tutto quanto l'avvenuto. Perché non ci sono più è però uno sforzo che io lo dico sempre, è uno sforzo che dovremmo tentare di fare in qualche maniera. Per questo con Agenzia X noi una volta all'anno tentiamo di fare un libro che è un libro tipo questo qui è proprio un libro dove ci partecipano tantissime persone. Credo non so se sono tutti i nomi. Comunque c'erano 12-13 laureanti o laureati su specifiche cose e su ogni controcultura, quella rave, quella hip hop, quella punk, quella degli anni 70, quella degli anni 60, noi abbiamo trovato proprio i realizzatori che avevamo messo insieme nella ricerca. Sono stati contenti di quelli che studiavano e contenti di chi erano di fare con i giovani. E quello era un libro collettaneo che noi tentiamo di fare per ricreare, insieme magari con un passaggio intergenerazionale, l'ambiente della redazione. La redazione funziona anche con adesso noi stiamo facendo un progetto sulla guida underground dell'area di Milano, che nel 2015 era uscito, Research Milano, prima di Expo, e adesso lo faremo uscire prima delle Olimpiadi. E che quello è un lavoro che tentiamo di mettere insieme. Tutti quei ragazzi e ragazze che espongono le loro forme di arte su carta sono invitati a partecipare al progetto. Infatti abbiamo in questi giorni la redazione piena di zeppa, infatti dobbiamo ringraziare che mi sono un attimo staccato perché da Milano, perché appunto questo progetto qui che può far partire anche la passione, la bellezza di lavorare in equipe su un progetto. Un progetto che è al di fuori delle logiche del mercato, perché comunque l'underground è così. L'underground non deve in qualche maniera contaminarsi troppo con il mainstream. Proprio perché il concetto dell'underground basilare era come quello dei neri, no? Degli schiavi neri che andavano, scavavano il tunnel sotto i campi di grano e proprio tra il duro lavoro e dormire riuscivano a scappare lì sotto l'underground, erano liberi di cantare, di recitare le poesie, di raccontarsi delle storie, mentre erano liberi. E quello è l'underground. Non è nemmeno l'underground è un movimento che cerca l'egemonia. No, non è, non cerca l'egemonia. Non è l'attivista della carta stampata che non va così. È una persona che non è l'intellettuale organico gramsciano che vuole fare la rivoluzione. Però la rivoluzione la mette dentro lì. La mette in quel momento e proprio perché c'è questa apertura redazionale del noi, la mia idea deve essere il confronto alle tue, e magari la mia idea non piace, oppure viene modificata in maniera diversa, che non ti piace più. E è proprio questo scambio tra la tua idea e l'altra che crea il noi. Marco, scusa, sì. A proposito di differenze tra l'underground e il mainstream, come avveniva come venivano distribuiti? Non erano riviste, le fanzine che trovi in edicola, ovviamente. Come puoi raccontarci qualcosa? Sì, sì, vedere le terreni sotterranei della distribuzione. Sì, no, allora, la vendita militante come si diceva, la parola militante non piace. Comunque la vendita militante è alla, sta alla base della, della vendita, diciamo, delle riviste. Perché? Perché tu fai la tua rivista e la vai a vendere prima di tutto a chi? Agli amici, alle amiche, a me vuole far vedere, guarda cosa ho fatto, no? È quell'atto lì, pubblicare, atto pubblico delle mie idee, pubblico le mie idee e te le voglio condividere, dammi il prezzo che ho pagato la stampa, dammi qualcosina in più, perché poi magari starò ancora una roba bella che è stato questo momento lì. È questo il momento in cui quell'io che siamo diventa il noi, è proprio lì. C'è un filmato famosissimo della, di quella rivista di San Francisco che si chiamava, adesso non mi viene il nome, che c'è questo fricchettone che va in giro per la strada e al passante gli dice: vuoi comprare questa rivista? Qui c'è una forte, c'è sesso, droga e musica. Si dice così. Nel senso cioè negli anni 60 era una roba. Scandalo, no? Il sesso, la droga e il rock and roll, no? Stavo la famosa canzone di Anduri, Sex and Drugs and Rock and Roll, perché veniva proprio da questo filmato, c'era una forte, non è che io ti vengo cazzato, insomma, ti vengo anche un pezzo di cuore, anche che rischio a fare questa cosa, no? Quelli di Renudo, che vengono sequestrate di Mondo Beat, quindi vengono sequestrate le riviste perché non hanno autorizzazione a vendere la giro per le strade. Cosa fanno? Fanno un grande manifesto lì nella loro sede e dice: perché le monache sì e noi per cappelloni no? Perché le monache andavano in giro a vendere le loro cavolo di laboratorio, loro fanno una battaglia sporca e la vincono, perché poi dopo indubbiamente o reprimevano anche le suore, le monache, come dicevano loro, no, però la vendita militante è fondamentale, è sempre stato così, cioè rimaniamo alla cultura materiale. Allora il processo creativo, da che mondo è mondo, 2000 anni, non è che adesso si è cambiato tutto perché c'è arrivato un cazzo di telefonino sopra il culo. Da che mondo è mondo, la creatività nasce perché ci sono i cinque sensi che noi mettiamo in gioco. Non basta l'udito, la vista e quel poco di tatto che abbiamo con il mouse o con il digitale. Non basta, cioè ci deve essere anche altro. E questa è la cultura materiale per noi, è importante, perché il processo creativo ha bisogno anche del gusto. Il gusto, cos'è? Abbiamo fatto un libro, anche peccato che non te l'ho portato, che si chiama di Max Guareschi, no? che ragiona sulla questione del gusto. Il gusto che cos'è? Il gusto della cultura materiale cos'è? Tutti pensano, il cibo. Non può che essere che il cibo. Ma voi non avete mai pensato che il gusto è anche... come uno si veste, come uno si atteggia, come uno... questo è il principio della cultura underground, anche si basa sul gusto. Tu vedi una spilletta, un capellino allora, una donna a fiori lunga, quelle femministe, veramente, punk, per vedere. Voi avete già una relazione particolare con quest'altra persona. E lo dico, io parlo del punk perché è quello che ho vissuto io, però in realtà con la musica trap oggi è la stessa identica cosa. Il gusto è incontrarsi per strada, guardarsi e poi magari anche stringersi la mano, abbracciarsi, baciarsi. lì che la tua idea creativa sedimenta, proprio nella relazione con gli altri. Poi c'è il tatto che è una roba importante. Il problema guardate, andate a Sprint e vi stupirete, se non siete mai stati a Sprint, anche se una cosa, c'è anche una contestazione, in Germania, io non mai visto, c'è la parte del bastone di Milano, perché c'è talmente tanta gente che hanno cominciato a fare un po' di selezione, un po' anche stretta, per gli organizzatori, quindi c'è tanta gente che sta fuori. Allora hanno deciso che faranno questa hanno costruito dei grossi cappotti e si mettono fuori con tutti i loro prodotti in questa maniera, no? Fuori della maniera un po' creativa che però infatti vorrei andare anch'io, però dopo che prenderei troppo, perché voglio una maschera, allora metto una maschera, vedo il face, però insomma questo fa capire la mia città, però anche quelle aprono e le produzioni sono tutte di piede aperto con il cappotto, non di tanti altri, ecco. Attualmente le riviste si possono vedere anche quelli Sprint stessi che vengono delle riviste del passato, come ho detto, ho trovato il mio libro con Stato Sanguinario che costava 200 euro di una volta, mi sono pure incazzato. Mi sono pure incazzato quando facevo questo progetto, perché? Perché come ci sono le grandi aziende culturali che tentano di rubare il filo della spazzatura per farne profitto, ci sono anche quelli che invece dall'altra parte prendono e si tengono via stretto stretto il cimelio per poi magari un giorno rivenderselo al triplo del prezzo. Quindi io sono sempre stato uno contrario a qualsiasi, noi di Agenzia X, sono sempre stati contrari a tutti quei collezionisti fecali, come chiamavano, perché sono veramente terrificanti. Noi infatti abbiamo fotocopie, noi facciamo fotocopie delle cose, abbiamo anche fatto quelle a colori, tutte perfette, come erano una volta, tutto un lavoro, però se le prendi in mano ce l'hanno rubato un casino. Prima di questo ne abbiamo fatto 5 copie di uno, 5 copie dell'altro, ne è rimasta una. Della fotocopia. Fotocopia di Greta Fresco, arrivavano questi veramente terrificanti. Oppure quelli, io cercavo delle riviste che non trovavo, che l'ho trovato in un archivio, che però era un archivio che voleva mettere il timbro del proprio archivio su questa rastrelliera che era tutto diviso, no? E io ho detto, no, il timbro mi rovina tutto quanto. Questo è Pianeta Fresco, il primo numero, sì, vero? Sì, sì, no, anche il primo e il secondo. Abbiamo acquisito anche noi. Sì, proprio questo. È una straordinaria rivista, che se volete vi racconto anche un po' questa rivista che ho, ma bellissima. Che però è una rivista che costava 5.000 lire. E quella non dovessero incazzare. Sono incazzati. Perché la vendevano a 5.000 lire, non mi ricordo, è comunque 10 volte di più quella che vendevano a Mondovizio, sono incazzati. Infatti queste qui era Sozzas e la Pivano, che erano sì persone importanti perché avevano portato la cultura americana, la Generation qui in Italia, sono riusciti a tradurla in maniera eccezionale, ma comunque per coloro che facevano Mondo Beat era la borghesia milanese, era il mainstream, e quindi ci sono state parecchie divergenze. Poi dopo in realtà se Sozzas che Pivano c'erano mezzo pure Ginsberg, allora hanno fatto una cosa che comunque rimane una cosa straordinaria. Ma diciamo che comunque è una rivista, Pianeta Fresco, che non è proprio una rivista dell'underground. È una rivista che scimmiotta un po' l'underground per chi lo fa. Certo, era un periodo 66-67 esplosivo, no? che lì la differenza tra mainstream e underground era a favore quasi dell'underground, insomma c'era un movimento totalmente sterminato, totalmente visionario, figlio dei fiori, sono già da venire, quindi il mainstream correva dietro, c'erano anche delle cose che venivano fuori come per questo, cosa che poi non è più avvenuta, perché poi sono stati gli anni 70 dove correndo lo spunto si fa forte. Ecco, poi ci sono gli anni 80 che rimangono qualche piccolo bocconcino sovversivo che siamo noi, che però abbiamo una produzione immensa, nonostante sia un po', però c'è una produzione immensa delle riviste, e poi gli anni 90 dove incomincia un po' tutto a mischiarsi. E poi ma non è neanche per errori di qualcuno di noi, è proprio per come è andato il mondo. Il mondo è stato così. Fine della guerra e il periodo, che parlavamo anche l'altro giorno, il periodo era dalla caduta del muro di Berlino, fine della guerra fredda, al binomio Genova Torre delle Gemelle. Quel periodo lì. Ecco, quel periodo lì è un periodo dove purtroppo quel noi generato dalle redazioni delle riviste comincia ad andare in crisi. E adesso vedo questa grande produzione, un'altra volta, enorme, gigantesca, come il tempo dei punk, ma i punk erano delle redazioni, seppur di ignoranti come capre, come ci dicevano nel punk, perché avevano rifiutato la scuola, erano pure ignoranti, però lì è venuto fuori il bel trip, lì sono venuto fuori anch'io. Tutto uno sviluppo di persone che si incontrano su un progetto comune. Se voi andate a vedere adesso cosa mi sta facendo vedere, però ecco, se vuoi ti riporto sulla distribuzione, la mia domanda, come venivano distribuite? La distribuzione, intanto la distribuzione è anni 80, è un passo in avanti della rivista che tu hai fatto per prima con magari con due tre amici del liceo, della zona ancora meglio, e hai dato agli amici, ho finito in giro per strada e ho detto dove sesso andare a per loro dentro qua, no? Quello lì è il primo passaggio. Il secondo passaggio, quando la rivista solitamente, dopo il secondo numero, che è sempre un po' difficile, che voi andate a vedere tutti i cose, se la maggior parte delle volte il terzo pubblicazione non c'è, quando sei alla terza pubblicazione vuol dire che hai cominciato ad avere il tuo giro, che la rivista ha funzionato e si pone il problema della distribuzione a quel punto, perché non si parla più di 100 copie, se ne parla di 1000. Difficile gestione, carta, peso e quant'altro. La distribuzione noi negli anni 80, siccome il nostro circuito era un circuito veramente separato dal circuito normale, avveniva con io e Fabiano magari ci scambiavamo le riviste che facevano qui in Trentino con quelle che si facevano a Milano, con Miguel, per telefono, con un biglietto, così funzionava, era un circuito fatto per telefonate che costavano tanto, addirittura epistolare, ti mando 20 fanzine, ti mando una copia, quante fanzine vuoi. E poi alla fine anche in costante sanguinare c'è tutto il circuito alternativo che si era creato intorno al parco. Negli anni 70 era diffusissimo, riviste come Rosso, addirittura come Renudo, erano riviste che facevano migliaia di copie. Anche il male, sì. Il male non è di Milano, io non l'avevo preso in considerazione. E, vabbè, e, e, e, sono delle riviste che continuano a ogni numero diventa sempre più grosso, quindi io sono costretto ad andare anche in situazioni più grosse, se no non funzionerebbe niente. Però diciamo che il passaggio dalla prima, le prime 100 copie, ad amici, parenti, conoscenti, quando si arriva a quel livello lì, incomincia a entrare anche la questione legata al tuo reddito. Questo è il problema, è un problema grosso, perché comunque quando entrano questioni economiche, lo spirito di collaborazione, di condividere i saperi senza creare poteri viene a meno. La rivista è siccome fa muovere le masse in qualche maniera, dal punto di vista immaginario, perché poi non è fa muovere le masse. È chiaro che più diventa grossa e più il problema di come tenere tutto insieme si pone. Si pone, diciamo che l'imbuto è la distribuzione, l'aumento del bilio è la distribuzione. Come fare a distribuire i libri, le riviste, questo qui diventa problematico perché a questo punto l'underground si deve relazionare con mainstream, è un po' una contraddizione che solitamente riviste come Decoder non è mai entrata in una dimensione del genere. Decoder ha fatto più di 12 anni, 13 anni e non ha mai fatto una distribuzione solamente, diciamo, attraverso i centri sociali, che sicuramente negli anni 90 erano molti e quindi c'era la possibilità credo che Decoder ha fatto anche più di 20.000 copie, quindi è una roba abbastanza grossa. Certo, è venuto, ma è un movimento enorme, si parlava di 300.000 copie di Renudo. Però Renudo, per forza, anche in quel momento, perché poi c'erano tutte le strutture del movimento degli anni 70, che è stato molto capillare, molto poco di massa, c'erano proprio i punti rossi, le librerie, che comunque erano librerie indipendenti, che erano tutte collegate, quindi facevano attività anche più, vendeva questa rivista, quindi era tutto una rivista che ha potuto svilupparsi in questa maniera perché quelli erano anni particolari. Anche Torzi, cioè, poi dalla rivista, ad esempio, Decoder, la redazione poi si è trasformata in una casa editrice. Era una casa editrice che faceva libri che erano comunque più difficili, perché poi la rivista parla di tutto, di musica, di cose pruriginose anche per la società dello spettacolo, quindi non è facile in qualche maniera venire a patti con il mainstream, però in ogni caso il mainstream è lì che sta a guardare. Quindi la distribuzione ha questa questione che secondo me è anche irrisolvibile, proprio perché la rivista in tutte le parti del mondo, ci sono delle riviste, ad esempio adesso mi raccontavano che c'è una rivista in Nigeria, che sta facendo parlare parecchio di sé perché praticamente è su un genere di musica che è nato soltanto lì, questa grande capitale enorme di 14 milioni di persone, di un tipo di musica proprio tipicamente legata all'hip hop, diciamo, ma in versione africana. E questa rivista ha generato anche delle proteste che poi sono proprio quasi la gente col vessillo della rivista che c'era in giro, per dirvi, ancora adesso può funzionare in una situazione particolare come quella che probabilmente è in Nigeria. Perché le riviste proprio sono quello, siccome è praticamente un libro moltiplicato per 10, 20, per 30, non solo i redattori, ma anche chi ha partecipato, tra l'altro, genera molta più energia, molta più voglia di incontrarsi. Appunto, ho detto, alle volte diventano le presentazioni delle riviste, alle volte diventavano, perché adesso come abbiamo visto le riviste relazionali non ci sono più, delle vere e proprie assemblee. E è chiaro che quell'energia, quell'attenzione quelle intelligenze, così tante intelligenze che condividono uno stesso spazio, uno stesso momento, uno stesso argomento, generano un'energia che è palpabile, come quello è tutto il materiale, proprio come il tempio del punk, quando per ballare dovevi ballare ma non si sapeva come cazzo ballare, allora si fugava, si toccava uno con l'altro e si liberava un sacco di energia, soprattutto l'angoscia che avevamo dentro, la liberavamo così. Ecco, la rivista è una cosa del genere, anche un po' un generatore di energia. Se voi andate a vedere le riviste che sono anche là, ognuna ha una storia straordinaria legata ai fermenti sociali. Sono riviste che hanno a che fare molto col sociale. Cioè è arte sociale, a differenza dell'arte accademica. È l'arte sociale che cosa vuol dire? L'arte sociale vuol dire che dentro quell'ambito dell'arte sociale si è creato un noi. Si è creato questo noi, sempre più allargato, che ci fa capire perché siamo depressi, perché non riusciamo a relazionarci con gli altri, perché questo io che abbiamo in testa come un narciso che ci gira tra le vene non ha spazio per liberarsi nel noi. Non si può non capire questa cosa qua. Adesso guarda cosa mi fa vedere lui. Amen. Questa è Amen. Amen. Amen era una rivista milanese, sì, che era sul dark, sulla cultura dark, il dark era un... il punk, per 10 punk che c'erano, c'erano 7, 8 tra donne e uomini che venivano dalla città e 3 o 4 dalla provincia. Questo era il 70% della città e il 30-40%. Il dark invece è contrario, viceversa. Era una cosa, 70 dalla provincia e 30 in città. È interessante questo dato, ne ho fatto un libro che si chiama Creature Simili, che racconta di Simone, che è un sociologo, che racconta questa bella differenza. Perché meno male il punk era colui che faceva corpo, il gruppo musicale, non sapevano suonare, saremmo sul testo di Grigio Zerbi, quattro Ramones che si fingono fratelli e salgono sul palco, però era simbolo che noi stiamo insieme, che in questo quartiere se stiamo da soli, noi che ci piace un po' l'arte, siamo fottuti. Allora mettiamoci insieme, il punk era questa roba qua. Però. E i Ramones, nello stesso quartiere, qui si sono trovati perché erano quattro, c'era un po' tanta gente, e alla fine quattro ne sono stati fuori. Chi vive in provincia non ha questa roba qua. E quindi è tutta una ribellione interiore, quella del dark, che appunto aveva come espressione Amen, e che diventerà però una rivista importante proprio per queste persone che erano sole, chiuse nel proprio piccolo paese di provincia, e che trovano in Amen qualcosa che gli appartiene, e vengono in città, trovano la forza per venire in città, e perché poi sono vestiti in maniera più assurda, con il crocifisso al contrario, insomma, era difficile, poi anche perché erano molto anticlericali, già sempre stati anticlericali, appunto perché l'oppressione della famiglia negli anni 50-60 era tale, per cui andare all'oratorio, dove fare la messa, comunione, tutto quanto, quindi questo anticlericalismo è proprio lo spirito in cui di rivalsa anche di una società che era cambiata. Arrivando ai giorni nostri, io prima ne ho accennato la trap, no? Stiamo facendo ricordo due libri, adesso uscirà un terzo dedicati alla controcultura trap, o meglio, alla subcultura o sottocultura, chiamatela come volete, comunque una cultura, una controcultura che sta nascendo. Loro la carta non la usano. Loro la carta non la usano. Assolutamente no. E questo, cioè, mi fa anche incazzare, perché non usate voi la carta? Alla fine la musica trap è ascoltata dalle nuove proletarie, che sono le seconde generazioni. In città ormai le periferie sono piene. A Milano il 25% della popolazione è di origine straniera, 25% tanto, ma chiaramente nelle periferie, nei quartieri, nei piccoli paesini di Interland la percentuale sale ancora di più, di certi. In certi dove sono le case popolari sono tanti, dove ci sono. E quindi la carta rimane proprio come la musica punk, che dei proletari, sottoproletari bianchi, rimane la carta una passione forte, almeno nella nostra società italiana, dei bianchi. I razzializzati di seconda generazione invece usano molto di più le muri. La street art, come sappiamo, che nasce nel 90, era proprio quello che si diceva, ormai la carta non vale più niente, ci sono la nostra carta, sono i muri della città, no? E la street art nasce in questo impegno qui. Per loro c'è molta questo rapporto diciamo artistico con la struttura architettonica della città. Su carta aspettiamo che arrivi qualcosa, si spera anche, perché comunque in altre città tipo Barcellona, ma anche soprattutto Parigi, stiamo uscendo già delle cose molto interessanti diciamo i giovani razzializzati. Però è una cosa che bisogna tentare di far crescere. Nel nostro piccolo abbiamo fatto tutto un laboratorio che si chiama Metix, che uno deve raccontare, uno di seconda generazione deve raccontare se stesso e fare una mappa del luogo in cui lui e lei vivono. Quindi non è facile, però almeno facciamo una fatica incredibile, cioè arriviamo a questo libro che si chiama Etnografia Trap, che è fatto da un'educatrice che anche è antropologa e lavora con i ragazzi di seconda generazione MSNA, minori stranieri non accompagnati. Allora noi tentiamo di fare questi laboratori per fare un'eventuale pubblicazione, ma facciamo una fatica della madonna, c'è in mano la penna per disegnare. Allora gli altri fanno col cellulare, allora lo fanno col cellulare, però è una stessa cosa. Però in ogni caso, siccome la nostra proposta culturale è una proposta culturale per le periferie, non ce ne frega niente appunto di andare a fare premi o aspirare alla grande industria culturale, quindi guardiamo sempre le periferie. E questi libri che noi facciamo sono abbastanza letti. Adesso l'ultimo che abbiamo fatto di Gabriel Serussi è un ragazzo di 25 anni, perché di solito quello che noi vogliamo fare, che lui faceva e fa ancora adesso una rivista Oltreoceano, si chiama, ed è una rivista che viene dal mondo dell'hip hop, quindi è una rivista Oltreoceano, tutta la cultura hip hop che si è guidata in milioni di maniere, anche la trap appunto. E quindi questa rivista è diventata una rivista importante per una generazione di, come lo stesso Gabriele è, di seconde generazioni. E da lì è partito l'idea di fare un libro con lui. Infatti le periferie riguarda con odio, la fobia di Maranza, è proprio tentare di capire se dentro a queste nuove aggregazioni di sottoproletari delle periferie possa nascere qualche bel progetto di rivista, magari, sicuramente è una maniera anche per conoscere meglio. Una maniera anche per conoscere meglio, perché come sappiamo anche nei centri sociali, anche nei posti più alternativi, circoliarci così, ce n'è uno, due, tre al massimo. Quei loro luoghi di ritrovo sono ristoranti africani, come dicevo l'altra volta, e dentro oppure kebab, o semplici bar dove magari il gestore delle varie periferie. E questa la questione, che comunque c'è qualcuno, no? C'è questo Moses One che ha scritto anche un romanzo che ce l'ha dato, trentenne di origine egiziana, nato e cresciuto a Roma, però ha dovuto venire a Milano per tentare di fare perché Milano, perché io sono una vena creativa e vuole fare, quindi ha tentato di fare l'artista visivo. Ha tentato di fare l'attore, tenta anche di fare lo scrittore, ma prima di tutto tenta di fare. Intanto fa il rider, e qui è venuto portandoci un romanzo. Però adesso non è l'oggetto, lavoriamoci e cominciamo a diventare amici, anche con lui. Però la rivista Oltreoceano di Gabriel è stata una cosa che io mi sono molto interessato subito, e sono andato subito alle presentazioni. Ho visto questo ragazzo che diceva delle cose molto interessanti, e un anno e mezzo fa è partito l'idea del libro. Adesso il libro sta facendo un certo successo, e quindi siamo contenti, perché proprio lo sguardo del grande amante di fanzine, vedere una rivista Oltreoceano su carta, che mi ha portato a conoscere una persona che aveva molto da dire. Questo mi fa capire. Però comunque Oltreoceano è una rivista che parla soltanto della musica rap, trap americana, anche per questo poi sono molto esterofili, e questa qui è la critica che io ho fatta. Come Agenzia X abbiamo fatto diverse tentativi di pubblicare delle riviste. Una ultima è questa qua, che non mi ricordo nemmeno come si chiama, l'Utopia di Torino, che però cioè, ormai nella redazione di Agenzia X tutti quanti mi prendono un po' in giro, perché non vendono niente. Le riviste che proprio un po' nostalgiche rispetto al presente. Si riguardano o a Decoder, o a Deriva Prodi, o ancora di più a Rosso. Sono tutte riviste che non hanno il passo della modernità, che invece io vedo in questi ragazzi che alla Sprint andranno Che sono fatte più di immagini forse che di sì, è parole. molto Ne semplice. ho presa una hardcore punk a Sprint l'anno scorso, Sì. mentre qui magari trovo tanti testi, queste sono Foto, tante foto, fotografie. fotografie, sì, tante fotografie, Cioè, testo tantissime. non c'è nulla, Cioè, c'è il come fosse un titolo piccolo che non si manga. legge nemmeno e poi fine produzione. Perché essendo le riviste sostanzialmente individuali, uno è quello che gli piace, poi tutto lui, poche copie, i più furbi o i più stronzi, secondo le opinioni, fanno copia firmata, la vengono a 20 volte Sì, meno c'è tanta 40. attenzione all'immagine, anche alla stampa, risografica, la nuova Bibbia, sono sei risografiche. Sì, perché non ci sia. Però sono tutti percorsi individuali. Una La cosa poi che rivista. usavano nelle No, parrocchie, nasce nelle parrocchie, la risografica dei bollettini. certo. La caratteristica delle riviste underground sono che c'è una redazione, un noi in via di sviluppo, che non ha nulla a che vedere con la passione abbastanza ombelicale della persona che parla solo sull'architettura, la rivista solo sull'architettura, la rivista solo sulla fotografia, la rivista solo sul costume, cioè veramente, è un po' assurdo. Certo, i festival dell'underground vedono delle cose invece incredibili, perché sono tutte pazze, tutte fantasiose, lisergiche. Sono bellissime, però le riviste, ad esempio, il punk, si potrebbe andare a vedere anche quello che sta producendo il punk adesso. Il punk ha 30 anni, come abbiamo visto, è un dispositivo incredibile in mano delle ragazze che hanno situazioni l'esistenziale è molto difficile, diventa duro per partire. Però il punk è anche gruppi che fanno un casino di successo, per me. C'è quel festival a Milano, a Echel Stream, che fa venire una marea di gente, però quella rivista lì è una rivista che fa parte dell'ambiente di Sprint, molto individualista e in qualche modo anche un po' estetica e poca etica, ecco. Ecco, insomma, la rivista underground era a metà strada tra l'etica e l'estetica, su quella frontiera, perché sennò non aveva senso. Certo, noi punk eravamo tutta etica e dentro estetica, però non è vero, perché in qualche maniera poi venivano fuori artisti tipo Bertrit, che piano piano lui disegnando sulle panzine, o io scrivendo piano piano, così. Poi la rivista, io e Bertrit, piano piano, perché lui faceva tutti i volantini dei concerti e io ci facevo le scritte. Quindi alla fine sono diventato un po' lo scrivattino e lui il disegnatore. Però è un principio normale questa cosa qui, proprio perché si genera in certi individui il nome. Infatti mi chiamo Filo Fatto, sono un personaggio del fumetto, dico sempre, adesso voi non l'ho detto, però già lo dico. Sono Filo Fatto, un personaggio del fumetti, e sono più un noi che un io. E cercherò di parlare sempre con noi. E lì la questione grossa. La questione bisogna tentare in tutte le maniere, ma anche nelle piccole cose, nei piccoli gesti quotidiani. Nei piccoli gesti quotidiani, tentare di capire dov'è che finisce il mio io e dov'è che inizia il noi. È chiaro che poi dopo, se c'è quel noi, diventa anche più facile liberarti di tanti appuntamenti, affanni che hai qua e là per stare insieme. È un po' il tempo che ci hanno rubato, il problema che da 20 anni non esce una rivista che ha creato un movimento. Bene, sei stato puntualissimo. Sì. 19:00. No, magari 59. Delle domande. Sì, io... infatti, se ci sono delle domande, io ne ho una, ma mi accodo su come veniva realizzata questa fanzine, perché adesso passa tutto attraverso un computer, una volta no, negli anni 80. Lascio spazio prima alle altre domande. Decoder. La facevano la parte grafica e la parte, diciamo, editoriale, di produzione editoriale, la facevano Chicco, che aveva fatto l'Accademia Librera ed era quello che aveva anche delle basi, diciamo, accademici. Poi c'era Paoletta Nevrosi, che era la mia socia attuale, che è andata, lei e l'altra grafica, che era Rosi Pianeta, sono andati a lavorare in uno studio di un grafico Cattaneo, che era un grafico a fare uno stage, poi dopo hanno lavorato anche per diversi anni per imparare il mestiere. Ma tutto avveniva col tavolo tecnico, taglierini e lucidi. Trasferelli, le scritte erano fatte con trasferelli, uno dopo l'altro, messo in maniera molto precisa. Infatti la mia socia Paola ha parlato di essere precisa, adesso è al limite della puntiglieria più atroce, perché viene da quella scuola lì. Però poi il cyberpunk, perché le cose sono importanti, il cyberpunk, che è proprio il punk che diventa cyber, ha la stessa attitudine del do it yourself, e quindi la vena punk dentro il cyberpunk voleva dire che si univa finalmente il punk con i ribelli che venivano dall'accademia, appunto Chicco per la grafica, Gomma che stava studiando sociologia, e Gianni che stava studiando informatica, E quindi però loro avevano sullo strumento informatico avevano delle remore, perché come invece noi punk avevamo questa disinvoltura, e quindi c'è stata questa unione qui che ci ha permesso di utilizzare il computer molto prima di chiunque altro. È importante per questo due cose, perché questa era la prima rivista che verrà fuori interamente fatta col computer, il secondo numero. Ah, ecco, sì, volevo chiederti se segnò appunto il passaggio da sì. forbice e colla al desktop. Sì, proprio dopo decoder ha fatto questo passaggio. Questo è il primo numero, stavo mostrando. Sì, questo qui è fatto ancora con la colla, ecco, vedete? Tutto pezzettino, tagliato, tutto quanto. Vedi, con la fotocopia si facevano i primi però questo è ancora il primo volume con il trasferello del filetto, per esempio. Questo qui è tutto fatto con lo strato, no, questo no, quello. E si parla anche di fotocopie? Sì, certo, perché lì si era scoperto come mai c'è stato questo boom di fotocopie, e era proprio il punk che faceva 10 copie prima, 10 copie dopo. Era proprio anche il fatto proprio economico, no? Il problema che stava talmente poco che allora uno può farlo. Era una domanda, che spazio utilizzavate? Cioè, a livello proprio di spazialità, per essere in tanti, unire più cose? Sì, non so, stavate in casa, vi arrangiavate, avevate una specie di studio? No. Noi, ma come tutte le riviste, anche quelle che magari non sono singole, ma vengono in casa. Le prime cose le facevamo in un locale di 30 metri quadri, tutti stipati lì, però riuscivamo a fare qualche cosa. Poi diciamo che con Decoder c'erano già degli spazi, però il virus è nato nel 82, il virus era un posto grandissimo, c'era proprio una piccola redazione per fare riviste, panzine, dischi e riviste. Quindi c'era anche lo scambio, c'era quello lì, c'era. Però quando il virus non c'è più, comunque Decoder ha può usufruire del Teskelter, che è la storia raccontata dei pirati dei navigli, che è uno scantinato sotto di un cavallo, dall'86 in avanti. E anche lì succede, però diciamo che Decoder, la vera rivista, è stata fatta nella libreria del primo anno. La libreria del primo Moroni, infatti si dice che il Decoder comunque aveva anche un'idea ben precisa di costruzione di un movimento radicale, di pensiero radicale. Perché? Perché avevamo anche alle spalle primo Moroni che ci dava molti consigli, dritte e quant'altro rispetto, per esempio, al movimento tecnologia, fu lui a dire che erano nuovi mezzi di conduzione. Noi pensavamo fosse i giochetti quando all'inizio per fare giusto la vestina. Poi invece poi sulla base di quel ragionamento se ne sono diramati molti altri, tipo a partire dalla mia copia che ho parlato, la questione del transgender, la questione dell'intersezionalità, come abbiamo detto Bernardo, è partito dentro la divisione di copia. Per non parlare anche dell'hip hop, tutta la questione legata all'hip hop, ma anche la questione legata ai rave, cioè dentro le cose è stato fatto tanto, proprio perché a un certo punto era una redazione veramente composita con tante persone che ci lavoravano, e dentro la Calusca, la libreria che era sempre piena di gente, venivano qui artisti tipo Baratella, o scrittori tipo Balestrini, cioè è un misto. Indubbiamente dentro la Calusca poi era nato Rosso negli anni 70, è nata Controinformazione negli anni 70, poi Decoder, Deriva Prodi, altre ragioni, sono tutte riviste che nascono lì perché appunto è una redazione 24 ore al giorno, cioè 12 ore al giorno aperta, cosa che in piccolo io sto tentando di fare un'agenzia che è sulla strada, come fosse un negozio. Infatti sono contento che mi sono un po' staccato, perché adesso è un periodo, grazie anche all'attivismo pro-Palestina, al Sud Flottiglia, c'è un movimento molto forte, quindi noi intercettiamo anche. che anche coloro che si mettono a fare le riviste per ragazzi che apriranno il loro giornale sono tanto dedicati alla Palestina, alla nostra Palestina, anche perché è un po' il paradigma per noi del mondo dell'underground che noi ci scandalizziamo che nessuno dica quasi niente a un massacro così grosso. E quindi è una cosa che nel mondo dell'underground ha funzionato tanto, con nuovi ragazzi giovani che vengono in alto braccio, ma anche in altri centri, che sono riempiti di gente e che fanno riviste. L'ho detto quella volta, 3 settimane fa, in un centro sociale di periferia, no, che io pensavo che fossero 20-30 banchetti, e invece ce n'erano 100. Proprio senza, non me l'aspettavo, ma nessuno se l'aspettava. Però, ad esempio, adesso noi abbiamo organizzato anche un festival della produzione, di patente. In realtà la maggior parte comunque di queste autoproduzioni sono artistiche nel 90% dei casi, nel senso che come quella fanzine che abbiamo visto sul punk, tutto fotografie, anche la maggior parte delle, anche l'anno scorso quando si è stati a Sprint o in vari altri festival di autoproduzioni, la maggior parte sono comunque fanzine o autoproduzioni artistiche, quindi c'è poco di scritto. Qui è Sprint l'anno scorso, che immagine. Nel senso che, ad esempio, anche nel punk, al giorno d'oggi, la maggior parte delle fanzine che ci sono non sono più quelle con le recensioni dei dischi, le interviste ai gruppi e queste cose qua, ma sono più delle produzioni artistiche che non proprio di divulgazione di quello che è, perché ormai anche per questa cosa qua si usa Instagram, obiettivamente. Quindi, nel senso, sì, esatto, la produzione cartacea è quasi più estetica che non di, che è un peccato. La rivista underground è una metà strada tra l'etica e l'estetica. Questo è un dato, la questione etica è il noi, se non ci pensi. Ah, certo. Capito, eticamente tu ti poni nella relazione con l'altro in una maniera orizzontale, è l'etica quella. L'estetica è tutto il resto, capisci? Il problema però non credo che sia la disaffestazione della lettura, ma il fatto che con il rapporto che abbiamo col telefono soprattutto ci fa perdere un sacco di tempo, e la scrittura come la lettura soprattutto deve approfondire. Finché non si romperà quel cordone umbilicale che abbiamo con lo scrollo, non riusciamo proprio a approfondire le cose. Cioè, c'è gente che al cinema guarda il film con lo scrollo, come cazzo è possibile? Cioè, ma poi in casa che sa che vedrà un attimo accedere, vedrà un mezzo film. Quello è il problema, come puoi capire, è enorme, gigantesco. Ma noi guerrieri dell'underground dovranno tentare di capire che magari ci sono dei percorsi di ricomposizione tra il fotografo, il grafico e chi sa scrivere, perché poi non parliamo dell'ambiente letterario, perché l'ambiente letterario, io siccome poi ci sto dentro tutto l'ora del giorno, diciamo, il Diego trip che nascono tra scrittrici e scrittori giganteschi, che io dico, ma cazzo, ma sei pazzito. Cioè, la scrittura è una cosa, d'accordo, ma non è che, cioè, quelli che sono, secondo me la fotografia, sono solo fotografie, quelli che sono, che scrivono, leggono tutto, e cazzo, no, ma non, che musica ascolti? Non ascolto. Cioè, non so, è tutto compartimenti stagni. Una rivista che ho fatto, come si chiamava? Teatro d'Oklahoma, che erano tutti, che avevano fatto filosofia, che avevano fatto letteratura, spettacolo, tutto quanto. Era veramente, io ce l'ho fatto, ce la faccio questa rivista, però Poi dopo la grafica, siccome non sapevo niente di grafica, hanno messo delle robe che boh, altane, qualcosa, cioè, un po' vecchie. Cioè, questa rivista dal punto di vista grafico, poi dopo, no, e dopo è arrivata la grafica. La grafica che, cioè, alla fine è venuto fuori una rivista di merda. Perché non è, non è una situazione, la rivista è una roba con l'età, si capisce che poi quando tu sei da solo, la rivista la puoi fare da sola e la tiri fuori come una vomitata. Quando fai una rivista dell'underground dove c'è una redazione, è tutto diverso, perché prima quella tua idea l'hai dovuta confrontarsi con le altre. E siccome magari le riunioni vanno avanti anche ore, si trova una via di mezzo che poi è quella che genera energia, quel noi generato delle relazioni. E sì, comunque è quello il problema, perché il detrat, io cercare grazie a una piccola rivista oltreoceano che parlava dell'estero, perché l'ho dovuto cercare lì? Perché capisco anche loro, comunque ci scrolleranno tanto, e comunque la cultura, per un film piace la musica hip hop, la musica trapperat americana, erano enormi informazioni potentissime per fare. Allora lì sono andati loro ancora in un settore specifico, oltreoceano, che in Italia si sforza anche di parlare, ad esempio, del cibo che mangiano. Oppure quello che ascolto molto tratto in Nebraska, cioè si fa fatto queste cose qua, c'è una cosa abbastanza simpatica anche per questo, e apre dei mondi che comunque sono dei mondi che appunto escono fuori dalla tirannia dei due sensi, udito e vista. Anche la voce sta sparendo. Questa è una roba pazzesca, la voce sta sparendo, perché appunto guardi le immagini, la voce, cazzo, sta sparendo la voce. Oppure ci sono quelli che la voce la usano per tentare di far carriera, punto e basta, tipo l'influenza. Però noi, poveracci, che cazzo facciamo? Qual è la nostra voce? Dove si esprime la nostra voce? In un lavoro di merda? No, ma farla esprimere in una redazione con i tuoi simili, farla esprimere lì. Oppure dove si esprime? A parlare cazzate davanti alla birra che costa 6 euro. 6 euro di birra. Perché la voce sociale che resistono, comunque la paghi 3 euro, ma in un maschio posto 6 euro, non so se qui è una situazione diversa, ma in centro di lavoro sarà per uno più uguale. Questo io che si è faticosamente guadagnato facendo 1000 lavori di qui alla palacca di aria, non per una rivista, capito? Perché abbiamo in casa un locale di 35 metri, dobbiamo comprare e dobbiamo fare una cosa insieme. Questa è la forza delle riviste, e sprint, dicevi giustamente te. Io guarda, mi metto volentieri fuori, perché comunque quelle di AFA stanno creando un movimento. Ci sono delle persone che lavorano, infatti anche il libro che è uscito, Milano Horror Retro Show, è tutto anche una specie di rivista che sta seguendo tutto la trasformazione, si dice proprio la muta che sta subendo diciamo la Milano, che non è più disposta a scendere compromessi grossi per quello di un messaggio di San Siro che ci vogliono vendere, che è anche abbastanza bello. E fermerei le domande se non c'è una molto breve, perché hai il treno tra una quarantina di minuti. Solo per questo. No, io sono venuto tornato perché il marchio dovevo vederlo, perché il marchio che mette la rivista Underground su Archive era veramente grande, è una cosa che bisogna supportare, e sono anche contento perché tante volte mi girano a me un sacco di riviste, fanzine, l'underground in giro per l'Italia, e tante volte le perdo perché sono casinista. però adesso invece lui mi incassetti, cioè adesso ci metto tutto via e poi piano piano devi spedire. Faremo il fondo figo a parte. No, il fondo figo a parte, no, fondo agenzia X perché. Sì. No, anche perché comunque poi ci sono altri fondi anche in giro per i centri sociali, però sono sempre precari. Invece qui comunque abbiamo una bella struttura che è seconda soltanto al museo di Berlino. Non so se lo conosci, a Berlino c'è il museo delle culture giovanili in tedesco. È una cosa bellissima, poi te lo faccio vedere. Forse te l'avevo fatto vedere, no? No. E comunque dopo quello è migliore questo. Bene, grazie Marco, vi invito a esplorare la nostra Digital Library per curiosare così nel mondo delle sì, fanzine. Il progetto di quello che non c'è, ma potete andare su Arcata e su tutte le riviste che potete scaricare. Sì. Fino al 2019. Riviste e altre. Posso fare una domanda proprio brevissima? Hai citato poco fa il laboratorio che avevate fatto con MITx, forse hai detto. Ah, seconda generazione, e sì. C'è un... mi puoi indicare dove posso andare a cercare un po' di info? Sì, vabbè, innanzitutto c'è un nostro libro che si chiama Chirografia tra... Ok, quello è una sessione, anche lì si parla di... Quello si parla di seconda generazione, più che altro è un trattato di tipo antropologico, di decolonizzazione del nostro pensiero sì. rispetto alla musica trap, è più rivolto a noi che non a loro, però è molto interessante. Quello che avevano noi invece quelli. Metix è un laboratorio che noi abbiamo parlato di Research Milano, sì. questa è la rivista dell'Underground, nel 2015 abbiamo inaugurato questo laboratorio Metix, che erano appunto quelli di seconda generazione non superiore a 21-22 anni che appunto raccontavano la loro storia, due paginette, e facevano questa mappa qua. E nel 2015 eravamo riusciti a farlo. Adesso stiamo trovando delle grosse difficoltà nel nuovo volume di Research Milano prima delle Olimpiadi. Hai capito? E quindi facciamo i laboratori, ma poi dopo lo faccio col telefonino, ci dice. Grazie a voi. E ci sono anche gli audio di Slam Mix su Radio 3, che è quell'altro progetto sì. che è. Sì, è un festival. Quest'anno il festival è il 12-13 di dicembre e ha sempre una slogan. Quest'anno è cara rivoluzione ti invito a resistere, che fa parte di una registrazione di un pezzo di un brano di Alberto Dubito. Cara rivoluzione ti invito a resistere. Slenix è un mezzo di canto. Dai 5-7 minuti di leggere poesie, narrativi o altri saggi, e poi parte 5 minuti da una pistola, poi una Thank you.